in primo piano. Buona giornata, buongiorno da Mauro Meazza, benvenuti alla rassegna stampa. Vediamo di approfondire alcune delle notizie che avete appena ascoltato da Laura Bettini nel corso del nostro giornale radio. Come avete sentito, appunto, c'è questa ritirata, potremmo dire, delle ONG, delle organizzazioni non governative, le cui navi ritengono che non ci siano più condizioni sicure per restare nel Mediterraneo e svolgere la loro azione umanitaria di sostegno ai profughi. Quindi altre ONG che si sfilano, per così dire, da questa azione. La cosa viene salutata ovviamente con accenti diversi a seconda delle linee editoriali dei giornali, come vedremo tra un attimo. Ma poi anche le vicende, per così dire, di Charlottesville, cioè questo ritorno alla ribalta dei nazisti americani. La cosa sembra quasi ridicola per chi come me alla mia età e ricorda il memorabile film Blues Brothers, in cui appunto si dice: io odio i nazisti dell'Illinois. Qui parliamo della Virginia invece di Charlottesville. Sembravano cose da film, invece, come abbiamo visto, sono drammaticamente vere. Anche su questo parecchi sono i reportage sui quotidiani. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che propone un'apertura, come abitualmente nel numero del lunedì, di approfondimento. La questione che viene messa più sotto esame è quella dei redditi d'impresa e dell'IVA, record di liti con il fisco. Si parla quindi delle liti fiscali dei contribuenti. Tra l'altro la stagione, diciamo così, è propizia, non perché sia agosto naturalmente, ma perché, come sapete, è in corso una possibilità di sanatoria delle liti fiscali. Avete già sentito, proprio dalla voce di Giacomo Bagnasco, un resoconto sulla classifica della sportività delle province italiane, una classifica che elaboriamo al Sole 24 Ore, si basa su 50 indicatori, guardiamo sia la disponibilità degli impianti sia i risultati a livello dello sport professionistico. Tutto questo sul Sole 24 Ore, ma vi voglio segnalare in particolare un lavoro della collega Francesca Barbieri sull'occupazione femminile, un fatturato di 600 miliardi. I posti di lavoro delle donne sono aumentati del 5% negli ultimi 10 anni e secondo una stima che presentiamo oggi sul Sole 24 Ore, con l'impiego delle casalinghe avremmo una crescita del prodotto interno lordo che sarebbe pari al 18%. Naturalmente qui andiamo più nella valutazione statistica. Come sappiamo, è difficile poter esibire nel bilancio pubblico questo tipo di contributo, ma come potete capire da questa cifra, il 18% del prodotto interno lordo, si tratta di un contributo enorme. E poi vi segnalo il fogliettone, come si dice in gergo, cioè la notizia leggera, che sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore ci racconta, per la penna di Roberto Galullo, di un possibile primatista mondiale, lo segnaliamo anche al Guinness dei primati, che ha intestato a sé 3.638 automobili. Quindi 3.638 automobili tutte per una sola persona. Naturalmente questo fa pensare che le cose siano fatte più che altro per occultare fini loschi e non appunto per passione della guida e delle automobili. Ma perché vi dico tutto questo? Perché naturalmente mancano pochissimi secondi al quindicesimo minuto e, come d'abitudine, in questo quindicesimo minuto noi lanciamo il traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta in primo piano. E allora, dopo le notizie sulla viabilità, bentornati ancora da Mauro Meazza, bentornato anche a Carmelo Lauricella, che è in regia e consente questa trasmissione. Grazie agli ascoltatori che ci scrivono, ci mandano messaggi. Il numero è sempre lo stesso, 349-238-6666, sia per gli sms che per i vostri whatsapp. Qualche ascoltatore evidentemente abituale delle rassegne stampa del lunedì mi chiede conto degli endecasillabi. Mi dispiace per questo. Quest'oggi nessun endecasillabo, invece lettura dei giornali, cercando appunto di segnalarvi le cose da approfondire, le cose da vedere più da vicino. E allora, abbiamo parlato del Sole 24 Ore, passiamo alle prime pagine, soprattutto delle testate maggiori. Cominciamo dal Corriere della Sera. tiene molto banco non solo sul Messaggero, che è quello che poi il giornale che poi ha sollevato la vicenda, ma anche su altri giornali, la questione delle tasse per le popolazioni colpite dal terremoto. E allora il Corriere della Sera dedica proprio a questo il suo titolo principale: tasse e macerie, protestano i sindaci del sisma. Poi c'è naturalmente su tutte le prime pagine dei giornali la notizia dell'abbattimento dell'orsa KJ2, che è stata abbattuta appunto in attuazione dell'ordinanza emessa dal presidente della provincia di Trento. Qui poi naturalmente c'è la spaccatura abituale tra chi dice non si doveva abbattere, chi dice si doveva soltanto sedare, e invece chi è d'accordo con questa decisione presa dalla provincia di Trento. Vi rimando per questo alle pagine interne, vi segnalo solo che appunto la notizia dell'orsa, che è quasi un'abitudine delle pagine estive, chissà perché, questo spuntare degli orsi e anche abituali polemiche a corredo, spesso tornano appunto nel mese di agosto. Vi dicevo però delle tasse di Amatrice, la questione mi sembra molto delicata, perché come dice il Messaggero, che poi è il giornale da cui è partito tutto per una intervista al sindaco di Amatrice Pirozzi, che ha detto sul Messaggero di ieri: non sono state mantenute le promesse, volevamo un'esenzione, ci è stato dato un credito d'imposta, inoltre volevamo un'esenzione totale per quello che riguarda l'area più colpita, invece è stato dato un credito d'imposta allargato. Allora il Messaggero ha il suo titolo principale su questo: terremoto, scontro sulle tasse. E poi nelle pagine interne c'è la replica del governo. Il governo dice: no, le regole sono state rispettate, ma come scrive appunto Alberto Gentili, l'esecutivo è in imbarazzo. Il Ministero dello Sviluppo, che poi è stato quello più preso di mira dal sindaco, perché è quello che ha diramato l'ultimo provvedimento, e si tratta di una circolare. Ora, senza entrare in dettagli noiosi, che poi al 14 di agosto a quest'ora del mattino sono un po' indigesti, però per capirci, tutto nasce dalla cosiddetta manovra di primavera, il decreto legge 50. Lì sono state riviste una serie di assegnazioni di fondi e modalità di erogazione di questi fondi, compreso appunto il trattamento fiscale. Questo decreto legge, come sempre succede, ha bisogno di alcune istruzioni. Le istruzioni vengono diffuse dai ministeri appunto con le circolari, ed è sulla circolare che poi spesso si comprende come mai, come funzionano o non funzionano, come in questo caso, le vicende. E allora vi leggo qualche breve brano da questo resoconto di Alberto Gentili. Il governo dice: sulle agevolazioni fiscali non si poteva fare diversamente, ci sono norme europee da rispettare, il regolamento è inoltre stato diffuso in agosto non per nasconderlo ma per dare più tempo alle imprese. Il decreto però, dice Sergio Pirozzi, appunto il sindaco di Amatrice, è stato applicato in modo sbagliato e in ogni caso, dice, va modificato, perché deve contenere il principio della esenzione da tasse e contributi per 2 anni su cui si erano impegnati, cioè il governo si era impegnato. L'imbarazzo nell'esecutivo è palpabile, e certo si capisce anche bene. Tra l'altro ci avviciniamo a un anno dal terremoto che ha colpito le zone del centro Italia, quindi abbiamo letto e continuiamo a leggere in questi giorni zone in cui si è intervenuti e altre in cui non si è intervenuti, quindi ci voleva anche questo tipo di polemica. Ieri mattina, scrive Gentili, la lettura del Messaggero ha fatto scattare l'allarme. Il sindaco era andato giù duro sull'esenzione: ci hanno preso in giro, ho studiato il bando, non c'è quello che era stato stabilito, ci avevano promesso l'esenzione e invece c'è solo un credito d'imposta. Allora, per dirla molto molto banalmente e brutalmente, mi perdoneranno i commercialisti, i fiscalisti all'ascolto, la sostanza è che se sei esente nulla è dovuto, se hai un credito d'imposta appunto avrai uno sconto, ce l'avrai, ma le imposte restano dovute, quindi non è una differenza da poco, è una differenza fondamentale. Ma poi il problema si è appuntato, come vi dicevo, sull'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ieri ha replicato dicendo: beh, noi non abbiamo fatto altro che spiegare la parte applicativa delle norme di legge istitutive della zona franca, non potendo quindi né modificare né integrare quanto previsto dalla legge. Come dire, non è colpa nostra, avevamo le mani legate. E questo effettivamente è vero, nel senso che una circolare contiene solo delle istruzioni, ma la disposizione che conta è quella della legge. Appunto, la legge è il decreto legge 50, è la cosiddetta manovra di primavera. Non era nel potere della circolare modificarne l'estensione. Però, dicono ancora dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'agevolazione dal punto di vista tecnico ha natura di esenzione, perché i benefici sono soggetti a un tetto in ragione del richiamo della norma di legge ai regolamenti comunitari de minimis, cioè non si poteva intervenire con esenzione generalizzata perché vigilano i regolamenti comunitari. Ora poi diventa difficile entrare in questi dettagli di come i regolamenti comunitari intervengano a disciplinare delle zone che sono sicuramente bisognose di aiuto rispetto a una nostra tecnicalità di utilizzare o meno un credito d'imposta, ovvero un'esenzione d'imposta. Vasco Errani, sulla stessa pagina del Messaggero di oggi, dice però: manterremo gli impegni presi entro i limiti delle norme europee. E allora vedremo domani, come sapete è Ferragosto, ma i giornali ci sono, quindi ci sarà anche questa rassegna stampa. Vedremo domani se ci sarà un ulteriore approfondimento per quello che riguarda appunto queste normative europee. Ma quello che poi va segnalato, sempre da pagina 3 del Messaggero: le macerie sono tutte lì, rimosso finora soltanto il 6%. A un anno dalle prime scosse il nodo è ancora quello dei detriti. Il focus è dell'inviato del Messaggero Italo Carmignani, hanno lavorato insieme a lui anche Alessandra Lancia e Ilaria Bosi, e hanno segnalato appunto che ci sono 840.000 tonnellate di macerie ancora da rimuovere solo nelle Marche. Il costo per smaltire una tonnellata è di 60 euro e nella regione Lazio le tonnellate di macerie sono stimate intorno alle 93.000. Questo è lo stato, per così dire, delle cose in Amatrice. Vedremo se appunto avvicinandosi l'anniversario si riusciranno a sciogliere questi nodi che oggi hanno hanno grande risalto sui giornali. Tra l'altro, sempre sul Messaggero, ma non solo, perché troveremo una cosa analoga anche sulla Stampa. Abbiamo detto di una norma che fa discutere, quella appunto degli aiuti ad Amatrice, un focus del Messaggero dedicato alle leggi senza effetti, l'impatto normativo, perché le leggi spesso non solo sono in ritardo e sono scritte male, ma per molte l'attuazione resta un flop. Come sapete, sul Sole 24 Ore facciamo abitualmente quello che si chiama rating 24, cioè verifichiamo qual è lo stato di attuazione, perché spesso una legge prevede poi dei provvedimenti cosiddetti secondari, dei decreti appunto, dei decreti applicativi, e questi decreti o regolamenti tardano, non arrivano del tutto, e qui appunto c'è anche il problema di riuscire a interpretare leggi che sono scritte sempre peggio, non solo a livello centrale ma anche a livello regionale, perché, come avverte Antonio Calitri, nelle regioni c'è una giungla da 700 disposizioni all'anno. In Sardegna addirittura hanno stabilito questo poco invidiabile record: 240 pagine per una norma. E dobbiamo purtroppo dire che chi si occupa, come accade al sottoscritto, di leggere spesso le norme nella Gazzetta Ufficiale, legge anche norme con un solo articolo, finanziarie con un solo articolo e 999 commi. Mi chiede un ascoltatore di Giulia Crivelli se l'abbiamo persa o è anche lei in vacanza. No, è in vacanza per qualche giorno, mi sembrava anche giusto dare un pochino di respiro a Giulia, che come sapete ha condotto e conduce in queste settimane agostane la rassegna stampa. Sulla Repubblica torna invece come titolo principale la questione dei migranti. Un piano del Viminale, scrive Repubblica, per sostituire le organizzazioni non governative con le navi di Triton, o Triton, se vi piace di più questa pronuncia. Dopo Medici Senza Frontiere, anche Save the Children ferma i salvataggi, informa Repubblica sempre in questo titolo. E poi c'è questa divisione nel Movimento 5 Stelle, Fico contro Di Maio, i respingimenti sono aberranti. All'interno, cioè nelle pagine 2 e 3, quindi con grande evidenza, la decisione appunto di Repubblica è quella di avere di dare più spazio possibile a quello delle organizzazioni non governative. Si torna con un lavoro di Annalisa Cuzzocrea e Fabio Tonacci su questa possibile sostituzione di Triton con il posto delle navi del ONG. Il ministero che dice il Far West è finito, si fermano altre navi umanitarie e Fico contro Di Maio, la logica dei respingimenti è aberrante. È interessante anche, sempre su Repubblica, pagina 3, questo incontro con i capi della Marina di Tripoli, cioè il comandante della Guardia Costiera e il capitano della prima motovedetta libici, che dichiarano a Vincenzo Nigro, inviato di Repubblica, che appunto i soccorritori aiutano i trafficanti, cioè secondo il loro resoconto sostanzialmente l'intervento delle organizzazioni umanitarie non è corretto, non è legittimo. Chiediamo, si legge appunto in questo lavoro di Vincenzo Nigro, ma perché avete assunto un atteggiamento così aggressivo con le organizzazioni non governative? Perché non rispettano la nostra legge e le nostre direttive e perché soprattutto fino ad ora hanno offerto un servizio eccellente ai trafficanti, un aiuto perfetto. Le loro navi non fanno salvataggio, fanno trasbordo diretto dei migranti. Noi non siamo in grado di intercettare tutte le comunicazioni radio o trasmissioni satellitari, quindi sappiamo poco di quello che dicono, ma per settimane abbiamo visto i risultati, barconi di migranti che venivano avvicinati al momento giusto dalle navi delle organizzazioni non governative. Il loro lavoro è prezioso, ma deve salvare i migranti, non trasportarli, altrimenti, e qui in un certo senso si riassume tutto il dibattito in questa frase, il dibattito e il dissidio che c'è rispetto alle varie posizioni emerse in queste settimane, altrimenti le ONG diventano un elemento decisivo nella catena criminale che permette a questo sistema di essere efficiente. È quello che appunto si legge su Repubblica nell'articolo di Vincenzo Nigro, che ha parlato con il comandante della Guardia Costiera Libica e il capitano della prima motovedetta. E naturalmente poi c'è anche la questione degli spari. Come sapete, una organizzazione governativa ha anche dichiarato di essere stata fatta oggetto di spari da parte della Marina Libica. Dice: abbiamo dichiarato la nostra zona SAR, cioè di intervento dove solo i libici intendono intervenire, chi entra si deve coordinare con noi, a volte spariamo, dicono, ma soltanto in aria. Questo quello che si legge su Repubblica appunto sulla questione dei migranti, in cui si annuncia questa ipotesi del ministero di chiedere alle missioni europee Sofia e Triton di aiutare la Guardia Costiera. Naturalmente c'è anche spazio, appunto, come vi dicevo, per la politica con questa spaccatura interna al Movimento 5 Stelle, con posizioni differenti sull'utilizzo o meno, sull'applicazione o meno del codice cosiddetto Minniti, che è quello appunto del nostro ministro dell'Interno e che è stato contestato ma anche poi sottoscritto da diverse organizzazioni non governative. Vi do un'ultimissima anticipazione, poi ci torniamo dopo la pubblicità. Berlino che si scopre capitale della bici, lo scrive Repubblica in prima pagina. Il 18% dei berlinesi si muove sulle due ruote, il 17% invece usa l'automobile. Pubblicità. In primo piano. E bentornati alla rassegna stampa. Buongiorno ancora da Mauro Meazza in questo lunedì della settimana di Ferragosto. Ringrazio tutti coloro che ci stanno scrivendo, 349-238-6666, sms oppure whatsapp come preferite. Qualcuno, più di uno di voi, mi chiede: ma come mai non sentiamo la voce di Giulia Crivelli? Giulia Crivelli, abbiamo deciso che meritava un periodo, qualche giorno insomma di vacanza pure sempre lei, visto che da agosto, come sapete, sta conducendo questa rassegna stampa. Allora, per qualche giorno ci sono io, non c'è Giulia Crivelli, c'è dall'altra parte del vetro Carmelo Lauricella. Grazie per il prezioso aiuto, Carmelo. Stavo parlando, come sapete, vi stavo riferendo di quello che scrivono i giornali, alcuni giornali, parlavamo appunto di articoli da Repubblica su questa vicenda dei migranti, le polemiche con le organizzazioni non governative, la decisione di organizzazioni non governative di ritirarsi dalle attività di soccorso in mare nel Mediterraneo per ragioni di sicurezza. Una notizia, che viene invece dal Sole 24 Ore ed è completamente diversa, non stiamo parlando in questo caso dei migranti che stanno affrontando o che hanno affrontato il mare per sbarcare in Italia o che adesso, come abbiamo letto, stanno premendo anche sulla frontiera spagnola, ed è un lavoro di Micaela Cappellini che, leggendo appunto attentamente, scavando in un rapporto dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che riunisce i paesi maggiormente industrializzati, è andata a vedere come vengono, quale sia il titolo di studio degli immigrati e come poi questo titolo di studio venga o meno riconosciuto nei paesi dove questi immigrati arrivano. I dati naturalmente non possono essere aggiornati a questo momento, il rapporto OCSE si basa su dati 2015, sono stati lavorati nel 2016, e allora scopriamo appunto dal Sole 24 Ore di oggi che l'Italia trascura le lauree degli immigrati. Cioè, cosa succede? Che spesso le persone presenti da noi non comunitarie hanno delle qualifiche scolastiche elevate, ma queste qualifiche scolastiche elevate non possono essere utilizzate o non vengono riconosciute. In altri paesi, ad esempio in Austria, che pure, come sappiamo, non ha proprio una politica di accoglienza tra le più aperte, o anche in Svezia, che invece ha una politica di accoglienza molto ampia, sono state varate iniziative e destinati dei fondi per facilitare il riconoscimento dei lavoratori non comunitari che sono cosiddetti sovraqualificati, cioè parliamo di persone che hanno una laurea, un diploma universitario ottenuto anche in sistemi scolastici affidabili, ma per ragioni anche di burocrazia è più difficile da noi questo tipo di riconoscimento quando il titolo viene ottenuto in un paese non UE, non dell'Unione Europea. E allora questo lavoro di Micaela Cappellini oggi sul Sole 24 Ore, vi invito a leggerlo a pagina 8, su questa difficoltà da parte di stranieri che arrivano con titoli di studio elevati di trovare poi nel nostro paese delle mansioni adeguate. Dal Sole 24 Ore e dai migranti torno invece sulla notizia che vi avevo annunciato. Oh, scusate, faccio un passo indietro. Oggi, come in tutti questi giorni di agosto, da lunedì a venerdì, sul Sole 24 Ore abbiamo l'agenda del professionista. Allora, come dico qualche volta con Alessandro Milan, qui Radio Fisco, ma dovrei dire qui Radio Codice Civile, perché oggi parliamo di divorzio. Voi sapete che, ricorderete tutti, la Cassazione ha fissato delle regole diverse sull'assegno divorzile, e allora facciamo il punto su queste nuove regole, sugli obblighi degli ex, lo facciamo nelle pagine di Norme e Tributi. E poi naturalmente l'iniziativa, l'agenda professionista, che serve appunto a ricordare, a fare il punto nave, quasi il punto sulla mappa delle novità normative che sono intervenute negli ultimi mesi, la cosa proseguirà anche domani. Domani, tra l'altro, vi segnalo, parleremo sul Sole 24 Ore, spiegheremo le nuove norme sul cyberbullismo e quindi le nuove tutele da parte di chi subisce molestie. Oh, questa cosa del cyberbullismo mi fa mettere un attimo tra parentesi la notizia di Berlino delle piste ciclabili, che posso darvi anche più avanti, più in prossimità del traffico, perché invece dal Corriere della Sera c'è questa indicazione già in prima pagina: la scelta di Laura Boldrini, denuncio chi mi insulta, contro gli attacchi violenti sul web. Non so quanti di voi sono frequentatori abituali dei social network, intendo dire Facebook soprattutto, ma anche Twitter, anche Instagram, insomma i vari meccanismi di comunicazione che siamo abituati ormai a conoscere e a frequentare a milioni in tutta Italia e nel mondo. Ebbene, però, per chi non lo fosse, segnalo che per motivi effettivamente poco comprensibili, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, è spesso oggetto di attacchi violentissimi e assolutamente immotivati, che sono composti anche da fake news cosiddette, cioè da cose non vere, le vengono attribuite affermazioni non vere, comportamenti o decisioni non vere, quando poi insomma non ci sono proprio degli insulti veri e propri che sono, ripeto, pesantissimi. Mi dà anche un po' fastidio, qualcuno viene riportato in questo articolo di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, mi dà un po' fastidio leggerli a quest'ora del mattino, devo dire la verità. Comunque la notizia è che la Presidente della Camera dice: da oggi denuncio chi mi insulta online e così incoraggerò le altre vittime a fare appunto lo stesso. Dice, se non, scrive Severgnini, è una donna, è una mamma, è una cittadina italiana, ricopre la terza carica dello Stato. Se non riuscirà a impedire questo uso perverso dei social, rassegniamoci e preoccupiamoci. Ci aspettano anni brutti. È ormai evidente che lasciar correre significa autorizzare i vigliacchi, continuare con i loro metodi e non opporre alcuna resistenza alla deriva di volgarità e violenza, scrive Boldrini. E così, e sfidiamo chiunque a sostenere il contrario. Non è questione di opinioni politiche, scrive Severgnini, è questione di buon senso prima e di codice penale dopo. In pubblico, in televisione o su un giornale è impensabile incitare alla violenza sessuale su una donna. Ma perché su Facebook avviene e senza conseguenze? E allora questa decisione di, ripeto, poi Severgnini riporta alcuni degli attacchi, devo dire quasi i più riferibili, che potete trovare sui social network proprio all'indirizzo della Presidente della Camera, e segnala tra l'altro che spesso queste persone non lo fanno protette dall'anonimato, ma si firmano con nome, cognome, fotografia, e qui fa anche qualche nome e cognome appunto di persone che incitano nei casi più come dire riferibili alla violenza su Laura Boldrini. Allora Laura Boldrini dice: farò così, cioè agirò denunciando questo tipo di comportamenti, perché sta passando l'idea che i social siano l'inferno dove tutto è possibile, e lo farò per incoraggiare tutti coloro, specialmente ragazze e ragazzi, che subiscono insulti e aggressioni verbali, a uscire dal silenzio e denunciare chi usa internet come strumento di prevaricazione. Questo trovate sul Corriere della Sera di oggi, il resoconto di Beppe Severgnini sulla decisione appunto di Laura Boldrini di rispondere con i mezzi legali a disposizione, e ci sono, per appunto chi istiga alla violenza nei confronti della sua persona sui vari social network e su internet. E allora questo mi è venuto in mente perché, come vi stavo dicendo, domani sul Sole 24 Ore ci occuperemo proprio nella nostra serie di pagine, l'agenda del professionista, della legge sul cyberbullismo. Poi appunto siamo sempre indignati e sconcertati quando leggiamo di adolescenti in difficoltà e addirittura in qualche caso che arrivano al suicidio perché fatti oggetto delle aggressioni dei compagni, dei cosiddetti amici diciamo così su Facebook, insomma proprio il caso di dire: dagli amici mi guardi iddio, che dai nemici mi guardo io. Torniamo invece alle bici, alle biciclette, perché a Berlino ci sono più bici che auto, cioè più persone che vanno in bicicletta che in auto, e ora avranno anche le super ciclabili. Il lavoro è della corrispondente di Repubblica a Berlino, Tonia Mastrobuoni, e dice: è il mezzo di trasporto preferito dai cittadini della capitale tedesca, che ora studia una mobilità sempre più a due ruote, sfidando la potente lobby automobilistica. Come sappiamo, i tedeschi sono anche produttori di automobili, tra l'altro alcune delle case più importanti nel mondo. C'è stato dato il via libera alla legge che garantirà piste ampie e sicure su tutte le strade principali. Entro il 2030 dovrà essere garantita una viabilità senza intoppi e fluida, così ha detto l'assessora ai trasporti Regina Gunther. e dove questo significa che ove necessario le piste ciclabili saranno proprio blindate con paletti e altri ostacoli per impedire che i camion che le intasano per caricare o scaricare merci continuino a farlo. Tra l'altro, se verranno segnalate delle buche, l'amministrazione avrà l'obbligo di riparare queste buche entro 6 mesi. E poi queste superstrade, cioè significa che la capitale, Berlino, si doterà spesso lungo i percorsi delle vecchie linee ferroviarie abbandonate di 100 km di ciclabili veloci, percorsi più lunghi di 5 km dove i semafori non dureranno più di 30 secondi. Per garantire la massima sicurezza, le superstrade per le due ruote saranno larghe almeno 4 metri, quindi proprio dei percorsi dedicati, quasi dei percorsi dedicati per la bici veloce, è quello che trovate su Repubblica. Ancora un'ultima segnalazione da questo quotidiano, perché prosegue una inchiesta che era già stata segnalata nei giorni scorsi, ed è l'attacco degli hacker al nostro Ministero degli Esteri. Il lavoro è di Floriana Bulfon, ci segnala che dalle carte della NATO ai report sulla Siria e la Libia, questi segreti della Farnesina che sono stati rubati da russi e cinesi, cioè da hacker di russi e cinesi. Il lavoro prende le mosse appunto da un'inchiesta fatta da Fabio Mensurati e Fabio Tonacci, apparsa sul numero di Repubblica di ieri, sulla vulnerabilità del sistema di protezione, di cyberprotezione della rete dell'esercito. Questo sistema non viene aggiornato, ha segnalato Repubblica, dal 2015, e non viene aggiornato, è brutto dirlo, perché la società che ha prodotto questo sistema e che quindi dovrebbe poi garantirne lo sviluppo e l'aggiornamento è fallita, e quindi nessuno più si occupa di aggiornare questo sistema. La difesa comunque ha fatto sapere che non c'è un problema di sicurezza cibernetica sulle reti di trasmissione dell'esercito. Con una lunga nota riferiscono appunto su Repubblica la replica all'inchiesta sulla vulnerabilità del sistema di protezione, che non viene aggiornato da 2 anni. La nota chiarisce che però il controllo, questo riguarda solo il controllo delle cosiddette reti aperte, che sono fisicamente separate dai sistemi informatici dedicati alla trattazione degli argomenti classificati. E naturalmente ci auguriamo per la nostra sicurezza che sia così. Traffico! In primo piano. E ancora una buona giornata da Mauro Meazza, buona giornata e benvenuti alla nostra terza e ultima parte di segnalazioni, di rassegna stampa, segnalazioni dai quotidiani di oggi. Diamo qualche altra prima pagina in cui trovate una lettura magari diversa rispetto a quella che abbiamo segnalato in precedenza, delle vicende ad esempio dei migranti. Su Il Giornale, per citare una testata, no ONG, no sbarchi, così la linea dura ferma l'invasione. Cambia il vento per la prima volta, questo dato di cronaca ispira appunto il titolo principale del giornale nell'edizione odierna, una giornata senza SOS né partenze, merito dei fondi mirati. E poi prima abbiamo parlato degli attacchi al Presidente della Camera, che ha deciso, e ne informa il Corriere della Sera, di replicare per le vie legali a questi insulti. Vedo che la questione ha suscitato anche diversi messaggi, vi ricordo il nostro numero 349-238-6666. E qualcuno mi dice: lodevole la vostra iniziativa sulla legge per prevenire e combattere il cyberbullismo, ma a Ferragosto chi lo legge? E questo, guardi, è per rispondere all'ascoltatore o ascoltatrice, è una bella domanda: chi legge a Ferragosto? Ma però se non si legge a Ferragosto, quando c'è un po' più di tempo, mi viene difficile pensare che si riesca a leggere anche in altre giornate. In ogni caso, i giornali si possono anche, come si faceva una volta, strappare e conservare, o adesso con il digitale conservare in formato digitale. Allora, vi stavo dicendo della prima pagina del giornale: no ONG, no sbarchi, la linea dura che ferma l'invasione, quindi una lettura affatto diversa della vicenda dei migranti. Il Fatto Quotidiano ha un titolo un po' differente sulla stessa vicenda: il mare si svuota per ora, meno partenze dalla Libia, meno navi delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo. Dopo Medici Senza Frontiere, appunto, riassume il Fatto Quotidiano in prima pagina, anche CI and Save the Children annunciano lo stop delle operazioni di soccorso intorno alle coste libiche perché non si fidano del governo di Tripoli che sta cercando di prendere il controllo delle acque intorno al paese. Le partenze dalle coste per il momento restano, scrive il Fatto Quotidiano, minime rispetto a giugno. Dal fatto quotidiano, dalla prima pagina, un'inchiesta sui 10 anni della crisi, nel senso che 2007-2017, appunto, celebriamo, si fa per dire, lo scoppio della bolla sui mutui cosiddetti subprime, quella bolla che poi trascinò, come sappiamo, l'America nella crisi finanziaria, il crollo di borsa, e poi da lì la crisi da finanziaria che diventa economica si espande, si estende anche in Europa e via via tutto quello che stiamo poi raccontando fino ad oggi. Questo lavoro viene presentato sul Fatto Quotidiano in 3 pagine, la crisi infinita. E come fu che si legge ad esempio da un articolo di Fabio Scacciavillani che gli USA ne uscirono e noi no, nel senso che l'economia americana ha ripreso comunque a marciare, mentre la nostra, come sappiamo, come leggiamo, come segnaliamo tutti i giorni qui da Radio 24, Sole 24 Ore, ancora mantiene un ritmo molto basso, pur avendo segnato diversi momenti positivi negli ultimi mesi. L'eredità in Italia, scrive ancora Marco Maroni, sempre sul Fatto, in questo decennale della crisi finanziaria, cioè lo scoppio della bolla dei mutui subprime, l'eredità in Italia, le famiglie povere che sono raddoppiate. E poi naturalmente ci sono tutte le incognite che ci aspettano per l'autunno, ad esempio il fatto che la Banca Centrale Europea andrà a ridurre il suo sostegno, per così dire, alla moneta, all'economia continentale, all'economia dell'euro, con la uscita dal cosiddetto quantitative easing, ma di questo appunto ci sarà modo di parlare probabilmente nelle settimane e nei mesi a venire. Sul Libero il titolo principale è dedicato a una inchiesta, che presenta proprio presenta soltanto Libero, l'Europa piace morta. 3 elettori su 4 vogliono cambiare le regole dell'euro o addirittura uscirne. La Germania è vista come un nemico e i nostri politici a Bruxelles sono ritenuti una iattura. Ecco lo studio riservato sulla Unione Europea che sta sul tavolo di Berlusconi. Il lavoro è di Pietro Senaldi e ci informa appunto che nella preparazione della lunghissima preparazione alla campagna elettorale per le politiche del prossimo anno, Silvio Berlusconi ha voluto anche incontrare un sondaggista ed esperto in analisi di mercato, Arnaldo Ferrari Nasi, che è fondatore di un think tank analisi politica, e il ricercatore si è presentato ad Arcore per una chiacchierata sui flussi elettorali e gli umori del paese. E allora, quali sono gli umori del paese? Li trovate a pagina 2 e 3 di Libero. Il sondaggio appunto segnala che c'è una discreta percentuale, un 35% di interpellati che è contrario all'euro, peraltro bilanciato, più che bilanciato, da un 58% a favore, mentre un 7% rimane su una posizione di non so. Rimanere nell'euro sì per il 29% e per un 55% rimanere ma ridiscutendo le regole perché così non funziona. Poi appunto questo concentrarsi sulla moneta in realtà è più un concentrarsi anche sulle regole, per voler riassumere anche in questo la difficoltà per le regole fiscali o per altri tipi di normative. Abbiamo appena letto proprio nelle prime parti di questa rassegna stampa le difficoltà, i vincoli europei che avrebbero impedito un intervento più ampio per quello che riguarda le esenzioni d'imposta sui comuni terremotati. Questo almeno quello che ha riferito il governo. Non si poteva violare le regole europee cosiddette del de minimis, e questo avrebbe ha condizionato appunto l'erogazione degli aiuti. Questo è il sondaggio che apre il Libero, e che poi peraltro ha spazio anche per arriva la legge, le ONG scappano, ed è la prova, viene riassunto così in prima pagina, che aiutano gli scafisti. La vicenda delle tasse ai terremotati pure trova un richiamo su Libero. Vorrei però concludere questi ultimi minuti con qualche cosa, per così dire, di un pochino più leggero, ed è un'inchiesta che trovate sulla Stampa: fuga dagli stadi italiani. In un anno meno 46.000 tifosi. Allora, visto che proprio ieri si è celebrata la prima partita ufficiale, appunto la Supercoppa, di cui avete sentito, viene naturalmente segnalata anche dalla Gazzetta dello Sport con il titolo Super Lazio, ai ai Juve. Ora gli ascoltatori di Radio24 sanno che le mie simpatie non vanno a nessuna di queste due squadre, e allora invece per chi tifa come me vi segnalo che secondo la Gazzetta dello Sport Perisic resta all'Inter, e poi caccia al difensore per quanto riguarda l'Inter, spunta Otamendi del City, questo dalla Gazzetta dello Sport. Allora, ieri è cominciato il calcio ufficiale e la Stampa presenta questo reportage, il calcio malato. Perché? Perché c'è proprio questo calo drastico, brusco degli spettatori negli stadi. Come sapete, è stato anche deciso di andare verso l'abolizione della cosiddetta tessera del tifoso, che limitava in certo modo l'accesso, ma soprattutto è che il calo degli spettatori, in questo lavoro di Massimiliano Nerozzi, dipende anche proprio da come sono costruiti i nostri stadi. E infatti comincia con questo resoconto del presidente della Federcalcio australiana, che è miliardario, Frank Lowy. È allo stadio Franchi qualche anno fa per Fiorentina-Lecce, inizia a diluviare. Allora questo signore, il presidente appunto della Federcalcio australiana, si guarda attorno, la tribuna di fronte, le curve, tra chi apre ombrelli, chi scappa via, poi si volta verso il direttore generale della Federazione Italiana Gioco Calcio, Michele Uva, e chiede: scusi, ma quando è che aprono il tetto? Da film di Woody Allen, scrive Massimiliano Nerozzi, o da pessima realtà. Sul calcio italiano piove a dirotto, in senso letterale e figurato. Come fa una famiglia ad andare allo stadio? Si chiede ancora oggi Uva, tra le maglie dei suoi ex club appese alla parete, dal volley al calcio. Gli stadi, dice appunto Michele Uva a Massimiliano Nerozzi sulla Stampa, sono il primo fattore su cui intervenire per far ritornare il pubblico in massa. Intanto però la Serie A dal 2012 a oggi, ci informa sempre la Stampa, ha perso 527 milioni di ricavi. Questo il resoconto. È curioso scoprire che invece in altri paesi, anche con climi peggiori del nostro peraltro, gli spettatori risultano in aumento. È vero che il nostro calcio ha un po' meno soldi da investire, questo specialmente negli ultimi tempi. Sono arrivati, come sapete, anche dei capitali dall'Oriente, dalla Cina, ad esempio qui per le squadre di Milano, ma c'è una certa contrazione delle capacità di spesa rispetto anche a colpi multimilionari che sentiamo. Un'ultima segnalazione in questo minuto scarso che ci resta per Il Giorno, quotidiano nazionale, che presenta un'altra inchiesta. Il lunedì è abitualmente una giornata appunto di inchieste realizzate dai giornali in autonomia sui sindaci disarmati, il cosiddetto DASPO urbano, perché dopo 4 mesi è entrata in vigore la legge che deve servire ai sindaci per prendere misure contro bivacchi, spacciatori, movida selvaggia. In realtà sono pochissimi gli allontanamenti forzati. Questo DASPO, appunto, una misura che si utilizza negli stadi per non far entrare i tifosi violenti, questo DASPO cosiddetto urbano è un'arma spuntata, scrive Il Giorno nel lavoro di Giulia Prosperetti, contro il degrado. Queste misure misure appunto non riescono ad essere applicate e resta il caos. È l'ultima segnalazione per quest'oggi, vi aspetto domani, ringrazio Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia, tutti coloro che naturalmente hanno mandato messaggi, 349-238-6666 e da Mauro Meazza una buona giornata a tutti.